Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia dei giorni nostri, di questi tempi nei quali la competizione, la voglia di arrivare esaspera tutto, anche se la nostra è una storia di sport, in realtà è proprio una storia su che cosa può succedere nella vita se il risultato diventa più importante della vita stessa. La storia è quella di una bellissima ragazza del Massachusetts che diventa più famosa per quello che le succede a bordo di una pista di pattinaggio piuttosto che durante le sue performance olimpiche. Raccontiamo di Nancy Kerrigan, che è una pattinatrice, diciamo il personaggio buono di questo racconto, che incontra il personaggio cattivo che si chiama Tonya Harding. Nancy Kerrigan, che arriva da una famiglia tutt'altro che benestante, figlia di un saldatore che fa altri lavori per finanziare la carriera della figlia, che ha una vocazione perché pattina molto bene fin da quando aveva 6 anni. Siamo nei sobborghi a nord di Boston, dove era nata il 13 ottobre del 69. I Kerrigan sono 3 fratelli, e l'abbiamo detto, di origini umili, che però riescono a fare sport. I 2 fratelli maggiori, che sono Mark e Michael, giocano hockey, e mentre la più piccola di casa pattina, sì, ma in modo più aggraziato, viene avviata al pattinaggio artistico. Nell'87 non è ancora maggiorenne, ma comincia a farsi vedere, quarta nei campionati statunitensi juniores, poi arriva nella categoria maggiore, quinta nell'89, poi quarta, poi terza, insomma riesce a ottenere il ticket per i mondiali, dove giunge terza dietro a 2 connazionali, Christy Yamaguchi e Tonya Harding, e ha uno stile molto aggraziato, molto elegante. Nel 92 vince il bronzo ai 16esimi giochi olimpici invernali di Albertville in Francia e poi l'argento ai mondiali. Nel 93 vince il primo titolo nazionale, battendo proprio Tonya Harding, che dopo il ritiro dalla Yamaguchi pensava di essere arrivata finalmente alla leadership nel pattinaggio statunitense, che era a sua volta leader nel mondo. Ad Albertville ci sono anche il padre e la madre che si abbracciano commossi durante la premiazione. Nancy entra in pista e si gode gli applausi salendo sul podio. Siamo nel freddo inverno del 94, è appena passato Capodanno e Nancy si sta allenando come sempre. Ha messo via i suoi patini, si sta avviando verso il corridoio, la sta aspettando una reporter del Pittsburgh Post Gazette, ci sono alcune telecamere, insomma è una prassi normale perché lei ormai è una stella dello sport a stelle e strisce, e invece succede qualcosa assolutamente anomalo, proprio di non normale, tra la fine dell'allenamento e l'inizio dell'intervista. Arriva uno sconosciuto, si avvicina al capannello che circonda l'atleta, con un gesto fulmineo la colpisce al ginocchio con una spranga di ferro e poi si dà alla fuga. Le telecamere immortalano gli istanti immediatamente successivi all'aggressione, con lei che piange, chiede perché è stata colpita così duramente. Questa è la voce originale del pianto disperato di Nancy Kerrigan a terra sul linoleum grigio che si tiene il ginocchio. Mancano 2 giorni ai campionati nazionali, che oltre al titolo di campione degli Stati Uniti consegnerà alle prime 2 atlete il ticket d'ingresso ai giochi olimpici invernali che si terranno il mese successivo in Norvegia a Lillehammer, e lì Nancy è data per favorita per una medaglia. Il pronostico scivola via con le lacrime che solcano il volto della nostra atleta, è annientata dal dolore di quel micidiale colpo al ginocchio. Tra i primi a correre in aiuto alla campionessa c'è il sempre presente padre, Dan. La solleva, la porta nello spogliatoio, raccoglie lo sfogo della figlia. Fa male, fa tanto male, gli dice Nancy, fa male e ho tanta paura. La sera stessa la ABC racconta l'accaduto così. In Detroit today there's been a violent attack on an American athlete, Nancy Kerrigan. Oggi a Detroit c'è stato un violento attacco ai danni di un'atleta americana, Nancy Kerrigan. La pattinatrice artistica, considerata come possibile vincitrice di una medaglia ai prossimi giochi olimpici invernali, è stata attaccata nel corso delle prove del campionato di pattinaggio artistico USA. Alla mente torna il caso avvenuto lo scorso aprile alla tennista Monica Seles, accoltellata nel corso di un match in Germania da un uomo che non ha mai pagato per le proprie azioni. Il giorno dopo i giornali scrivono fiumi di inchiostro. Ger Longman racconta così l'episodio sul New York Times. Un testimone ha detto che l'assalitore, un uomo bianco di circa 1,90 m per 90 kg, ha colpito la Kerrigan con uno strumento simile a un crick, un piede di porco o un manganello. Kerrigan è stata portata all'ospedale locale per i raggi X e poi dimessa senza fratture. Il medico, il dottor Steven Plomaritis, ha detto che l'attacco è apparso calcolato e che l'assalitore stava chiaramente cercando di indebolirla. Al momento non è noto se la Kerrigan sarà già in grado di pattinare venerdì. La gamba destra è quella che l'atleta usa per atterrare dopo i salti. Praticamente il medico spiega che gareggiare per 2 minuti e mezzo non è che possa peggiorare il danno subito da Nancy, è solo questione di quanto dolore lei può reggere. All'uscita dell'ospedale Nancy Kerrigan dice ai microfoni della ABC Sports che tenterà di pattinare e di fare la gara. Però aggiunge anche questo: pattinare non è la cosa più importante, se non potrò farlo lo affronterò, sono ok. Sarebbe potuta andare molto peggio. Il falco e il gabbiano. Nancy Kerrigan deve partecipare a una gara che si svolgerà il sabato sera alla John Lewis Arena, ma il suo ginocchio è stato messo a dura prova da alcune sprangate che le ha inferto uno sconosciuto che evidentemente non vuole farla partecipare a questa gara. Il suo agente, Jerry Solomon, dichiara in media che il ginocchio continua a gonfiarsi, è già stato cancellato un allenamento pianificato. Nancy dovrà essere esaminata di nuovo dai medici venerdì mattina, il giorno prima della gara. E intanto inizia l'indagine. Alcuni hanno visto un uomo correre, altri hanno visto solo una grande confusione. Sentiamo una testimone. Abbiamo urlato, tutti. Qualcuno urlava di fermarlo. E il mio primo istinto è stato quello di intervenire, ma non mi sono mai sentita tanto impotente in vita mia, perché non potevo saltare addosso a quell'uomo, corpulento e armato. Ho provato a fare attenzione a ciò che stava succedendo e poi la gente gli è corsa dietro. È bene ricordare che l'attacco a Nancy Kerrigan è il secondo ai danni di un famoso atleta nel giro di pochi mesi, vi ricordate? Ne abbiamo parlato. Il 30 aprile del 93 la tennista jugoslava Monica Seles, che viene accoltellata alla schiena durante una partita al torneo di Amburgo con la star del tennis sulla sedia durante un cambio di campo, piegata in avanti per bere un po' d'acqua, e che viene colpita un uomo che ha eluso la barriera di sicurezza, le infila un coltello tra le scapole per 1,5 centimetri, mancando di poco la colonna vertebrale, poi l'aggressore che cerca di pugnalarla di nuovo, un agente che riesce a bloccarlo, si scopre essere uno squilibrato che è ossessionato dalla Graf, quindi geloso della rivale Seles, che verrà condannato. E in precedenza altre 2 pattinatrici sono state coinvolte in episodi di minacce. A fine 91, per esempio, un disoccupato con problemi psicologici viene arrestato per avere molestato la campionessa olimpica di pattinaggio artistico Caterina Witt. Decine di lettere minatorie, lettere oscene. E 2 anni dopo Tonya Harding, campionessa americana e olimpionica del 92, viene minacciato di morte e da allora è accompagnata da una guardia del corpo. Ma torniamo a quel 6 gennaio del 1994 a Detroit, all'aggressione a Nancy Kerrigan da parte di un uomo ancora per ora sconosciuto. Devo aver sentito qualcosa dietro di me, così ho deciso di girarmi. In quel momento ho fatto giusto in tempo ad accorgermi che qualcuno mi stava correndo incontro con un'asta di ferro in mano. È stato un momento molto duro. Questo è il ricordo di Nancy Kerrigan della sua aggressione. Intanto le radiografie escludono gravi danni, però la contusione all'incavo del ginocchio destro è tale da pregiudicare la partecipazione di Nancy ai campionati nazionali. E tenete conto che i campionati nazionali spesso negli Stati Uniti l'anno delle Olimpiadi sono i trials, li chiamano, cioè i primi due o i primi tre a seconda sono quelli che accedono alle Olimpiadi, quindi i campionati in questo caso, non essendo stati disputati, impedirebbero alla Kerrigan di andare a Lillehammer. Ci andrà la 23enne Tonya Harding, la rivale di sempre, e poi c'è una 13enne che si chiama Michelle Kwan, e quindi lei è tagliata fuori. Insomma, Tonya Harding diventa campionessa nazionale, piange di gioia dal palco e le Olimpiadi per Nancy Kerrigan si allontanano. Però nella tarda serata di sabato, dopo ore di tensione, la federazione americana annuncia che in base a un cavillo dello statuto la Kerrigan potrebbe rientrare e grazie alla medaglia di bronzo dei giochi invernali del 92. Insomma, alla fine viene deciso, a Lillehammer al posto della 13enne Kwan che salta andrà Nancy Kerrigan. Intanto proseguono le indagini perché la polizia cerca l'uomo che indossava un cappello e un cappotto di pelle nera. Secondo alcuni testimoni, un uomo simile era seduto in tribuna quel pomeriggio e riprendeva con una videocamera Nancy che si allenava. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia di sport che diventa un intrigo molto complesso che fa parlare il mondo, perché stiamo parlando di Nancy Kerrigan, grande patinatrice statunitense che a 23 anni diventa la campionessa americana di pattinaggio artistico. Questa Kerrigan ha una rivale che si chiama Tonya Harding, che arriva molto spesso seconda dietro di lei. Arriva la notorietà mediatica, direi, per tutte e due per motivi extrasportivi, perché il 6 gennaio del 94 Nancy Kerrigan viene aggredita, colpita a una gamba con una spranga di ferro da un uomo incappucciato subito dopo una sessione di allenamento, ma soprattutto subito prima la gara che deve decidere chi delle americane andrà ai giochi olimpici di Lillehammer. Il 19 gennaio arriva la svolta. L'ex marito di Tonya Harding, che si chiama Jeff Gillooly, che ha 27 anni, viene arrestato con l'accusa di avere organizzato l'aggressione. A accusarlo è una guardia del corpo della Harding, che viene a sua volta incastrato da una registrazione video. Indica l'esecutore dell'agguato e l'autista dell'auto usata per la fuga, quindi una confessione anche piuttosto circostanziata. E questa guardia del corpo, che si chiama Eckard, tira in ballo direttamente anche la campionessa americana, che è quella che lui protegge, perché nella sua deposizione sostiene di avere visto la Harding fare due telefonate al Palazzo del Ghiaccio, nel quale si allena normalmente la rivale, la Kerrigan, giusto per cercare di individuare i suoi orari di allenamento, e di averla sentita mettersi d'accordo con l'ex marito, che in caso di interrogatorio avrebbe risposto di averlo fatto per chiedere alla Kerrigan di firmare un poster per un suo fan. Tonya Harding è costretta a smentire il tutto nel corso di una conferenza stampa e con servizio dell'epoca. Vorrei iniziare questa mia dichiarazione esprimendo tutta la mia costernazione e dicendo quanto mi dispiaccia tutto questo. Also, for the first time, Tonya Harding talked today. Tonya Harding ha parlato oggi per la prima volta, dichiarando che non sapeva dell'attacco a Nancy Kerrigan prima che avvenisse, ma che venne a conoscenza dei dettagli sull'aggressione a pochi giorni di distanza dal fatto. E lei ha ammesso che non andò subito dalla polizia per dire quello che sapeva. Although my lawyers tell me. Molti di voi non saranno in grado di perdonarmi per ciò che ho fatto ed è già difficile per me perdonare me stessa. Nonostante i miei avvocati mi dicano che il fatto che io non abbia immediatamente informato la polizia non possa configurarsi come un reato, so di avervi delusi, ma so anche di aver deluso me stessa. But I have also let myself down. E intanto Jeff Gillooly, l'organizzatore dell'agguato, anche se lui nega ogni coinvolgimento, viene rilasciato su cauzione. E intanto bisogna dire che i due si erano separati e poi l'unione si era ricomposta proprio mentre venivano preparati i documenti del divorzio, insomma erano tornati a vivere assieme. Naturalmente, con il precipitare degli eventi, Tonya cerca di prendere le distanze dall'ex marito. Dopo tormentate riflessioni, ho deciso che è meglio per entrambi se Jeff e io ci separiamo di nuovo. Sono giorni difficili per tutti e due. Io sono innocente e continuo a credere che anche lui lo sia. Gli auguro tutto il bene possibile, ma penso che durante questo cruciale periodo di preparazione per le Olimpiadi è meglio che io mi concentri totalmente sugli allenamenti. Nel frattempo però la Federazione Americana di Pattinaggio comincia naturalmente a prendere in considerazione l'ipotesi di revocare la convocazione olimpica a Tonya Harding. Chiede al Comitato Olimpico di poter riconvocare la giovanissima Michelle Kwan. Ve lo ricordate, la tredicenne che continua a entrare e uscire da questa vicenda perché viene convocata e poi lasciata a casa e poi di nuovo convocata. Passano pochi giorni, il primo febbraio intanto Gillooly si dichiara colpevole di ricatto in relazione all'aggressione a Nancy Kerrigan. Patteggia una pena di 2 anni, una multa di $100,000 in cambio dell'esenzione da qualunque altra incriminazione connessa col fatto, capito? Mica scemo. Comprese quelle ben più gravi che potrebbero risultare dall'inchiesta federale ancora in corso. Are you guilty of the allegations? Si dichiara colpevole per le accuse riportate dal suo avvocato? Sì. In base a questa considerazione, come intende definirsi? Guilty. Colpevole. Oltretutto, nella sua confessione, Gillooly accusa la ex moglie Tonya Harding di essere pesantemente implicata nell'aggressione ai danni della rivale, da lei stessa approvata fino dal 28 dicembre precedente. Insomma, la gobbia si sfalda veramente e cominciano a accusarsi reciprocamente. E Gillooly dice che la Harding ha effettuato molte telefonate per cercare di scoprire le abitudini della Kerrigan in modo da poterla colpire a casa sua. E dice che ha consegnato una fotografia ai suoi complici, una fotografia della rivale perché la desse a uno degli esecutori materiali che non avevano mai visto Nancy Kerrigan. Insomma, il progetto era andato avanti, era già fallito un tentativo di aggressione a Boston dove vive la Kerrigan e quindi la Harding si era insospettita sul fatto che insomma si era spazientita più che altro, perché aveva detto a Gillooly che lui non era in grado di fare quella cosa per lei, quasi come se lei gli avesse chiesto una prova d'amore di questo genere. Insomma, viene spostata l'aggressione a Detroit, avrebbe dovuto lasciare un biglietto l'aggressore per far pensare a uno psicopatico, però c'era una telecamera, c'erano dei giornalisti, insomma un'aggressione che continuava a essere pronta per essere messa in atto. A Olimpiadi già iniziate, la Federazione Americana consente a Tonya Harding di partecipare ai giochi, di nuovo la tredicenne viene fatta fuori un'altra volta, e anche se nel frattempo c'è un giudizio perché la Nancy Kerrigan chiede alla Harding $25 milioni, che per una martellata mi sembra niente male. Se volete venire a darmi una martellata per quella cifra, io vi porgo il mio ginocchio. Intanto il 25 febbraio 94 arriva la tanto attesa finale olimpica e l'esibizione di Tonya Harding è un colpo di scena via l'altro. Prima arriva in ritardo e irrompendo all'ultimo secondo da dietro una tenda con l'inalatore antiasmatico in mano. Poi, appena cominciato l'esercizio, manca il salto, scoppia a piangere, si dirige al tavolo della giudice di gara spiegando che le si è rotto un laccio dello scarponcino. Insomma, riesce a far ripetere l'esercizio. 20 minuti dopo scende di nuovo sul ghiaccio e però non tenta neanche il triplo axel, che era una figurazione che l'aveva resa molto famosa. Insomma, viene relegata all'ottavo posto. Vince il bene perché Nancy Kerrigan entra nell'Olimpo del pattinaggio con una medaglia d'argento. Nel 2004, a 20 anni di distanza, di fronte alla giornalista che le chiede se sentiva che c'era tanta pressione su di lei e risponderà così: I guess, but I was... Sì, immagino di sì, ma ero talmente concentrata. Sai, puoi allenarti a concentrarti, puoi imparare a farlo, ma In questo caso sei ad un livello talmente elevato e diverso dalla normalità, al quale solo alcuni sono ammessi, e la pressione è così forte. È qualcosa di più della semplice concentrazione. Non so come ci si arrivi, se non grazie a qualcuno che in qualche modo ti ci spinga dentro. Someone's sort of forcing you into it. Tony Harding si dichiara colpevole di intralcio alle indagini, patteggia una pena $100,000 di multa, $50,000 in beneficenza, insomma tutto per evitare di essere processata per altri reati connessi a questa aggressione. E tra l'altro si scopre anche che le minacce nei suoi confronti, le minacce di morte del 93, erano false. Era stata la stessa Tony a inviarsele da solo per riguadagnare consensi e puntare ai giochi olimpici di Lillehammer. Insomma, la sua parabola volge sempre più in basso, viene stromessa dal pattinaggio, tenterà di riemergere prima con la box, poi con una carriera da spogliarellista, da porno attrice, finisce anche in carcere per alcolismo. E invece la vita di Nancy Kerrigan prosegue almeno per un po' come una favola. E come tutte le favole, anche quella di Nancy Kerrigan però non dura per sempre. Il 24 gennaio 2010, a 16 anni dall'aggressione di Detroit, il padre settantenne, quel padre che le era sempre stato vicino, muore in ospedale dopo essere stato ricoverato a seguito di una lite con il figlio 45enne Mark. E durante la discussione Mark avrebbe afferrato al collo con forza il padre. Insomma, Mark viene accusato di omicidio colposo, i suoi familiari si schierano con lui, compatti, e sostengono che Daniel, il padre, aveva un cuore malconcio, la pressione alta, e la storia finisce con una condanna per 2 anni e mezzo di carcere, nonostante peraltro le suppliche di Nancy davanti alla corte. E abbiamo con noi Gaia Piccardina, giornalista sportiva del Corriere della Sera, insomma una esperta in materia. Buongiorno Gaia. Buongiorno Enrico, ciao. Buongiorno. Stiamo parlando di uno sport che suggerisce grazia e leggerezza, ma in realtà abbiamo associato a questo racconto una storia invece piuttosto brutale. Strano, no? Che proprio in uno sport così leggiadro sia accaduta una cosa del genere. La storiaccia che raccontate oggi è effettivamente truce. Se ci pensi, col senno di poi, non è poi così inconsueto che lo sport della leggiadria, come l'hai definito tu, si porti dietro vicende di cronaca ai confini della nera in questo caso. Pensa a Katarina Witt, che è stata una delle grandissime del pattinaggio artistico, lei atleta della DDR, dell'ex DDR, spiata dalla Stasi, e pensa in casa nostra, nel nostro piccolo, alle vicende di Carolina Kostner e la vicenda, insomma, che l'ha travolta, relativa al doping dell'ex fidanzato Alex Schwarzer, che le ha comportato una squalifica pesante, insomma. Senti, ma la Kerrigan era veramente così forte che Tony Harding non poteva fare altrimenti per fermarla? In realtà la leggenda racconta che tra la Kerrigan e la Harding, quella baciata dal talento fosse più la Harding della Kerrigan, quindi la cattiva della storia, però minata da tutta una serie di sue insicurezze, titubanze, autostima sotto le lame, paranoie mentali, una storia personale abbastanza sfortunata, veniva da dalla provincia americana, dall'Oregon. Certo. Quindi, insomma, minata da queste sue insicurezze, la Harding ordì questo agguato ai danni della Kerrigan, quando invece sul ghiaccio avrebbe avuto tutte le caratteristiche per spiccare, ecco. La Kerrigan, insomma, poi ha lasciato l'agonismo molto giovane, insomma, è stata comunque un atleta atipica, però quanto ci saremmo ricordati della Kerrigan senza quell'incidente? Buona domanda, secondo me poco, nel senso che la Kerrigan poi nel pantheon delle pattinatrici mondiali ha un suo posto, per carità, ha vinto un argento olimpico alla fine in quell'Olimpiade a cui lei partecipò riprendendosi dall'assalto dei sicari mandati dalla Harding, e poi ha vinto anche un argento e un bronzo mondiali. Io però penso che se lei non fosse stata la protagonista nel ruolo di vittima di questa trama appassionante che sembra un film, la storia l'avrebbe vista surclassata da fior di campionesse. Gaia, sei stata gentilissima, grazie, grazie veramente, un abbraccio. Ciao, ciao, presto. Una storia che è il tipico specchio dei tempi della società competitiva di oggi e anche della, e soprattutto della società americana, nella quale ci insegnano che insomma bisogna apparire a tutti i costi, vincere a tutti i costi. Una triste e emblematica storia nella quale i colpi d'ala sono più in negativo che in positivo. Comunque, se volete segnalare delle altre storie che volete che noi si racconti, anche storie di rivalità come questa, scrivete al Falco il Gabbiano chiocciola radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it. ricordatevi che per ogni storia che vi siete persi c'è un podcast che vi sta aspettando. E tra l'altro sappiate anche che abbiamo delle bellissime pagine Twitter, Facebook, noi, il Falco e il Gabbiano, io, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.